Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E allora partiremo da quanto approvato oggi dal Parlamento Europeo, che riguarda molto da vicino l'Italia, ossia il regolamento che poi dovrà diventare legge vera e propria, ma insomma si prevede che entro il 2011 possa già essere operativo. Il regolamento, dicevo, che obbliga qualunque prodotto entri in Europa ad avere indicato il paese di provenienza. Non è infatti un obbligo in questo momento, molte volte si può leggere made in China, made in Taiwan, Indonesia, quant'altro, però è a discrezione. Dal 2011, se i tempi verranno rispettati, sarà un obbligo il cosiddetto made in. Ed è un successo soprattutto dell'iniziativa italiana, infatti molte dichiarazioni anche entusiaste del vice ministro Urso, della Confindustria stessa, perché diventa un regolamento europeo, quindi si dovrà applicare per qualunque paese europeo in cui entri della merce che viene da fuori, quindi che sia Turchia o che sia Cina poco importa. Poi parleremo anche del sud, perché oggi vi è stato un incontro importante della Presidente Confindustria Marcegaglia con i governatori delle regioni del sud sul tema dei fondi strutturali e della loro rimodulazione. Sappiamo infatti che i fondi comunitari vengono spesi poco e male, ma soprattutto poco in questo caso. Per esempio i fondi comunitari che Bruxelles mette a disposizione delle aree più svantaggiate dell'Europa, tra cui il nostro Mezzogiorno, nel periodo 2007-2013, Bruxelles ha messo a disposizione 44 miliardi di euro, per ora ne sono stati spesi solo 4 miliardi, cioè un decimo. E questo è grave, gravissimo, per incapacità degli amministratori locali, regionali, provinciali, comunali di sviluppare progetti, perché i fondi possono essere spesi con progetti. Poi in alcuni casi vengono anche spesi male, nel senso che i progetti sono o fittizi o pretestuosi. Però, da questo punto di vista si chiede di rimodulare questi fondi, e attenzione, perché quando i fondi non vengono spesi, quello che succede è che questi soldi tornano a Bruxelles e vengono dati ad altre aree depresse. Portogallo, alcune parti della Spagna, l'Irlanda ne ha usati tantissimi, e quindi non solo non riusciamo a usarli, ma vengono usati dai concorrenti dell'Italia, per cui un doppio danno. Di questo parleremo in apertura, made in e fondi strutturali per il sud. Parleremo poi dei mercati e soprattutto di Fiat. Allora, la borsa oggi va bene, più 1%, ma al di là di Bulgari, che guadagna il 5,5%, Fiat guadagna il 4,35%, Exor e quindi la holding il 3,5%. Perché? Perché i conti diffusi oggi e presentati oggi da Marchione sono oggettivamente migliori delle attese, e Fiat ha rivisto al rialzo tutti gli obiettivi per l'anno in corso. L'utile della gestione ordinaria arriverà ad almeno 2 miliardi di euro, l'indebitamento industriale scenderà sotto i 4 miliardi. Marchionne ha detto: siamo contenti di risultati trimestrali che sono eccellenti. Complessivamente, poi ne parleremo in maniera più estesa, Fiat ha chiuso il terzo trimestre del 2010 con utili per 190 milioni di euro contro 25 milioni di euro di utili del terzo trimestre del 2009, quindi un netto miglioramento. I ricavi hanno fatto più 12%, però è cresciuto un po' l'indebitamento, che ha 4 miliardi contro i 3 miliardi e 7 del trimestre precedente. Ottima la reazione di borsa. Chi va male invece in borsa? Popolare Milano meno 1,2%, Fondiaria meno 1,1% e Impregilo meno 0,3%. Chi va bene oltre a Bulgari e Fiat ed Exor? Anche Geox più 3,30%, Autogrill più 2,60%, Mediobanca più 2,5%, Campari più 2,2 come Mediolanum, il 2,1 lo guadagna CIR, il 2% è rialzo di Unipol e Telecom Italia. Euro sempre a quota 1,40, quindi sempre fortissimo. Le altre borse vanno bene, se non anche meglio, di Milano: Parigi più 1,40, Francoforte più 1,30, Londra più 0,90, l'America guadagna lo 0,70%. Parleremo anche dei 7 anni di condanna a Faenza, l'ex numero 1 di Banca Italease, che ha messo sul lastrico, oltre che Monte dei Risparmiatori, ha rischiato di mettere in ginocchio anche il gruppo a quel tempo Popolare di Verona, e Novara, Banco Popolare adesso. 7 anni però, chiederemo anche per cosa li ha presi Faenza i 7 anni. E poi nella seconda ora del programma il tema Francia e Gran Bretagna, cioè da un lato la Gran Bretagna ha questo piano di austerity fortissimo, dall'altro in Francia sembra bloccarsi anche l'intero porto di Marsiglia. Cercheremo di capire come mai, il perché di una reazione apparentemente perlomeno così forte, non un semplice tra virgolette sciopero generale, ma un paese bloccato nei rifornimenti di carburante, nei rifornimenti per le merci e appunto anche negli imbarchi per i porti. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Vedo già dei messaggi di vario genere, ma insomma, adesso li leggeremo con calma. Andiamo con le altre notizie. Diciamo del petrolio a 81,5 dollari al barile, sempre lì il petrolio. E ancora per quello che riguarda l'oro, invece non si segnalano particolari novità, è sempre fermo a livello da record. In America i sussidi di disoccupazione sono calati di 23.000 unità e l'indice Fed di Filadelfia, quello che dà l'andamento del settore manifatturiero, è salito in settembre a 1 contro il meno 0,7 di agosto. Gli incentivi, il ministro Romani ha firmato il decreto sugli incentivi per rilanciare i consumi. Non è tantissimo, sono 110 milioni di euro recuperati dalle somme non spese e attingendo alle risorse residue dei settori che hanno avuto un minor tiraggio e rimodulandoli in un fondo unico a favore di tutti i 10 settori. Sono 110 milioni di euro, che vuol dire più o meno 11 milioni a settore. E invece la stretta sulle auto blu potrebbe comportare entro il 2014, però, secondo il ministro Brunetta, un risparmio medio di oltre 200.000 euro per amministrazione. Lo ha appunto consegnata come stima il ministro Brunetta oggi ai presidenti delle Camere. Il ministro ha predisposto un disegno di legge per disciplinare l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte delle pubbliche amministrazioni. Si punta a ridurne il numero, i costi e migliorare il servizio, ma a questo punto, dopo che molto se ne è parlato, sarebbe ora di far passare questa legge. Allora, andiamo avanti con l'edilizia. È uno dei settori che ha più pagato la crisi. È vero che è uno dei settori che meglio si era mosso negli anni del boom del mattone, però insomma il dato è che nel 2009 il settore dell'edilizia ha perso 47 miliardi di euro di fatturato, cioè 338 miliardi di euro il giro d'affari aggregato contro i 385 del 2008. Sta arrivando qualche segnale di ripresa nell'edilizia dal 2010, come dato diffuso oggi dal rapporto di Federcostruzioni, e però la perdita di posti di lavoro toccherà a fine 2011, secondo Federcostruzioni, il 500.000 di occupati. Ne ha già persi il settore dell'edilizia 250.000 di occupati. Di Faenza è stato condannato a 7 anni di carcere, Massimo Faenza, però pene minori anche per Pino Arbia, ex responsabile delle relazioni esterne, e i mediatori Leonardo Gresele, Claudio Calza e Luca De Filippo. Poi l'interdizione dai pubblici uffici a livello perpetuo per Faenza, ne parliamo più avanti, così come più avanti parliamo di Fiat. Adesso vorrei iniziare con il primo piccolo tema, che non è ancora il Made In, ma è diciamo l'incontro, o che cosa fare per il nostro sud potrebbe essere il tema, l'incontro che c'è stato in Confindustria questa mattina tra i governatori delle regioni meridionali e la presidente di Confindustria, i vari vicepresidenti e delegati, sul tema dei fondi strutturali e di come rimodularli. E sì, perché non solo non riescono a utilizzare i fondi comunitari delle regioni del sud, ma hanno anche visto calare negli ultimi due anni il valore aggiunto del settore industria, che è sceso del 20%, generando, secondo le stime più prudenti, 100.000 disoccupati in più. E poi, se l'Italia negli ultimi 10 anni ha perso in produttività circa 30 punti rispetto alla Germania, il Sud ne ha persi 36. Da questi due dati è partito l'intervento della Presidente di Confindustria Emma Arcegaglia, che è arrivata a chiedere una cabina di regia con tra le imprese e i governatori delle regioni del Mezzogiorno per individuare gli investimenti necessari e quindi utilizzare i fondi europei anche per far ripartire l'economia del Mezzogiorno. Io voglio solo citare due dati. Uno, che il nostro paese ha un problema di produttività in generale molto forte. Noi dal 97 al 2007 abbiamo perso circa 30 punti percentuali misurati in termini di costo del lavoro per unità di prodotto rispetto alla Germania, che ovviamente è il nostro benchmark, è il nostro maggiore competitore. Nel Mezzogiorno, nello stesso periodo, il costo del lavoro per unità di prodotto è addirittura ancora più alto di 6 punti percentuali rispetto alla media italiana, quindi c'è già un problema grave di competitività italiana in generale, per il Mezzogiorno e ancora di più. Il secondo dato è che, ovviamente considerando anche gli anni di crisi, il valore aggiunto del settore industriale è diminuito nel sud di quasi il 20%, generando 100.000 nuovi disoccupati. Quindi, insomma, c'è un problema di crescita generale dell'Italia, un problema ancora più forte che riguarda il Mezzogiorno. Noi da sempre, e questa presidenza ancora di più, considera il tema della crescita del Mezzogiorno un tema fondamentale. Ci sono alcuni fondi FAS europei che potrebbero essere spesi, c'è poi il problema del patto di stabilità su cui dobbiamo ragionare, che sta bloccando molto di quello che si può fare. Allora, si tratta di capire come investire al meglio questi fondi. La nostra idea, la conoscete, è quella di cercare di concentrare questi fondi su alcune priorità fondamentali. Per noi sono la ricerca, innovazione, le infrastrutture, la sicurezza, l'energia, l'ambiente e certamente anche un incentivo automatico per gli investimenti nel Mezzogiorno. Pensiamo che davvero lo strumento migliore sia proprio quello di ragionare con una cabina di regia tra governo e regioni, con una partecipazione delle parti sociali. Ovviamente noi siamo tra quelli più interessati a questo tema. E allora, che cosa hanno detto alcuni dei presidenti delle regioni del sud presenti all'incontro con la presidente di Confindustria? Sentiamo il presidente, il governatore della Sicilia, e mi riferisco a Raffaele Lombardo, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, che ha sostanzialmente detto, insomma, la fiscalità di vantaggio, cioè tasse più basse per chi investe al sud e produce al sud, è lo strumento principale per il lancio del Mezzogiorno. Le regioni del sud, ormai da tempo, per la verità, hanno stretto tra di loro un patto di consultazione e di iniziativa comune che serve sicuramente a far sì che alcuni impegni, che forse il governo ha dimenticato, ma che stanno scritti nella legge sul federalismo, vengano mantenuti. Due in particolare, questa perequazione infrastrutturale, c'è il federalismo, però c'è anche l'impegno a farsi carico del superamento di un deficit strutturale che è gravissimo, e la fiscalità di vantaggio, che non può essere quella che sta scritta nel decreto, e cioè che le regioni che hanno i conti a posto possono abbassare le tasse. Questa per noi sarebbe fiscalità di svantaggio. Bisogna contrattare con l'Europa, che le regioni, a obiettivo 1 si diceva una volta, o coesione, ci guadagna l'Europa perché risparmia fondi strutturali che servono a poco e niente, abbiano un regime fiscale diverso. Non tutto il paese, che questo oggi l'Europa lo consente, l'ha consentito ad esempio all'Irlanda, ma pezzi di territorio che hanno condizioni di ritardo come quelle a obiettivo coesione possono avere una fiscalità zero per un periodo di tempo, non so, 10 anni, 15 anni. Fiscalità zero per alcuni pezzi del paese, chiede Lombardo, governatore della Sicilia. Sì, basta che poi quello che poi è un carico per tutto lo Stato, cioè se entrano meno soldi da alcune regioni vuol dire che altri cittadini devono ripianare, o comunque che bisogna fare un giro di vite. Dice basta che poi questa fiscalità venga usata veramente per progetti concreti, non per cattedrali nel deserto, solo magari con l'interessamento anche di mafia, 'ndrangheta e camorra. Comunque, tra le regioni del sud, la Basilicata si distingue in positivo per l'utilizzo virtuoso dei fondi, anche se non manca qualche problema, come ha ricordato il presidente Vito De Filippo, sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Non lo abbiamo scoperto soltanto dalle tabelle che ha messo a disposizione Convindustria, che hanno fatto una ricognizione anche sull'utilizzo dei fondi comunitari. Noi abbiamo fatto prove importanti negli anni precedenti, stiamo continuando a mantenere questo trend positivo nella gestione dei fondi comunitari, ma ci siamo resi conto che non basta, perché insieme alle capacità amministrative serve un paese intero che si occupi un po' più seriamente, con meno spot, con meno accuse, con meno pregiudizi del Mezzogiorno. Ci mancherebbe, nessuno qui ha pregiudizi, accuse, spot, però. Cioè, immaginate cosa, adesso io lo dico senza nessun giudizio politico, né diciamo quantomeno o perfino diciamo razzista, ma immaginate se le regioni del centro-nord avessero a disposizione 44 miliardi di euro per 5 anni, dal 2007 al 2013, forse li saprebbero utilizzare, forse i governatori e i presidenti di provincia devono assumersi qualche responsabilità, anche forse gli imprenditori del sud. Comunque, per non dare giudizio nostro, ascoltiamo che cosa ha detto, che cosa disse lo scorso 2 luglio, si era intervenuto all'assemblea della Coldiretti, il ministro dell'economia Tremonti. Alcuni dicono è il vostro mito, no, però insomma, quando dice cose che ci piacciono lo mandiamo in onda anche ripetutamente. Cosa disse Tremonti a proposito del sud e della cialtroneria di chi non sa nemmeno spendere i fondi che ha? Ieri ho incontrato il commissario europeo per i fondi regionali. Abbiamo tutti evidenza di uno scandalo pauroso prodotto dalle regioni meridionali. Lo stanziamento sul programma comunitario 2007-2013 è pari a 44 miliardi. Questi signori ne hanno spesi solo 3,6, solo un dodicesimo. E mentre cresceva la protesta contro i tagli subiti, aumentava l'accumulazione dei capitali non usati. E questa è una cosa di una gravità inaccettabile. Allora la colpa non è dell'Europa, non è dei governi nazionali, né di destra né di sinistra, è la colpa della cialtroneria che prende i soldi e non li spende. Come dare torto al ministro dell'economia Tremonti? È vero, molti governatori delle regioni, anche del nord, si sono lamentati per i tagli previsti dalla manovra di luglio, però poi se ti lamenti e non sai spendere 40 miliardi di euro, forse è meglio che tu stia zitto. Cialtroneria, vedo che alcuni la criticano, no, io, d'accordissimo, in questi casi forse è quasi buono parlare di cialtroneria. Comunque adesso c'è il meteo, la pubblicità, poi sentiamo che cosa è successo con la legge sul Made In, commentiamo anche la borsa, arriviamo alla condanna di Faenza. E poi il bilancio della Fiat, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare fra qualche minuto di borsa. Più 0,90% Milano, più 1,20% la chiusura di Parigi e di Francoforte, più 0,70% quella di Londra e più 0,60% l'America, con l'euro a quota 1,40%. Molto bene Bulgari, più 5,5% e Fiat, più 4,5% anche di Fiat. Parleremo. Vorrei però occuparmi adesso di un tema delicatissimo per le nostre imprese, visto che l'Italia è il paese più contraffatto al mondo. Solo nel settore alimentare noi abbiamo contraffazioni che valgono 60 miliardi, 7 miliardi valgono i prodotti contraffatti in Italia. Parliamo di Made in Italy, di Made In, non solo Made in Italy, perché ci sono importanti novità che arrivano da Bruxelles. Il Made in Italy, dicevamo, appunto, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di risoluzione sul Made In che prevede la creazione di un sistema di etichettatura per indicare l'origine dei prodotti importati nell'Unione Europea da paesi terzi. Stragrande maggioranza di sì, 525 contro 49 contrari. A questo punto manca solo via libera del Consiglio Europeo, che potrebbe arrivare già a fine anno per rendere così esecutivo il regolamento operativo già dal 2011. Si concluderebbe in questo modo una vicenda, un iter, come si dice in gergo, che è cominciato nel 2003 quando l'Italia, che era presidente di turno dell'Unione Europea, avanzò tramite il vice ministro Adolfo Urso la proposta di adottare un regolamento unico, cioè che non ogni paese facesse come vuole, per rendere obbligatoria la dicitura del paese di origine. I prodotti interessati sono tessile, abbigliamento, calzature, ceramica, oreficeria, viti e bulloni, utensileria, coltelleria, vetro, rubinetteria e pneumatici. E siccome sappiamo che il mercato dei falsi vale in Italia circa 7 miliardi di euro l'anno e il 60% delle merci contraffatte arriva dalla Cina, insomma, stiamo ragionando di un settore che ha un danno enorme, praticamente 5 miliardi di euro per le imprese che lo subiscono, 10 miliardi quanto a mancato gettito IVA e renderebbe precari all'incirca 250.000 posti di lavoro. Vittoria, grida o annuncia il vice ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, vittoria storica della linea italiana, e puntiamo ad avere il passaporto obbligatorio dall'inizio del 2011. Ronchi dice: il sistema Italia ha saputo fare squadra. E vedo già alcuni messaggi che dicono: ma non c'era già la legge sul Made in Italy, la legge che porta il nome dei due primi firmatari, Reguzzoni, Versace? Sì, c'era anche quella. Per capire perché in questo caso il governo e la Confindustria dicano di essere assolutamente soddisfatti, vittoria italiana, mentre restò la Confindustria abbastanza fredda su quella legge del Made in, siamo in collegamento col vicepresidente di Confindustria con la delega all'internazionalizzazione, Paolo Zegna. Buonasera. Buonasera. Allora, facciamo capire che cosa prevede questa normativa europea, il Made in, e poi arriviamo al confronto invece, dottor Zegna, con quella approvata dal nostro Parlamento, iniziativa leghista ma anche di Santo Versace, dove però molti produttori, anche grossi, restarono parecchio freddi perché dissero, insomma, è un po' una, se mi passa il termine, un'azione alla Tafazzi, se lo ricordo Tafazzi, insomma, ti fai del male da solo. Ti metti dei paletti da solo, rischi di essere un boomerang. Andiamo con ordine: che cosa è passato nel concreto in soldoni oggi per voi che producete Made in Italy con quello che ha approvato il Parlamento Europeo? Allora, è passata la legge che noi abbiamo sposato e stiamo spingendo, anzi è passato un regolamento in Parlamento, come ha detto lei non è il fine dell'iter, però abbiamo passato un passaggio estremamente importante, un regolamento che noi abbiamo sposato 7 anni fa, che è quello che indica a livello europeo l'obbligo per tutte le merci nelle categorie che lei stesso ha indicato, che entrano da fuori Europa, di indicare il paese di origine. È un principio di trasparenza, è un qualche cosa che noi vediamo quindi in favore del consumatore, al quale ovviamente lasciamo tutta la libertà di scegliere il prodotto che preferisce, che meglio risponde ai suoi requisiti di qualsiasi tipo essi siano, ma per fare questo richiediamo, questo regolamento ci dà ragione, richiediamo effettivamente che ci siano anche le indicazioni del paese di origine, quale uno degli elementi che il consumatore può considerare nella sua scelta. Questa è la legge che appunto è a livello europeo, per cui è la forma che a oggi è l'unica possibile per approvare delle forme di questo tipo. Non può essere una legge nazionale, deve essere una legge che tutti i paesi europei a maggioranza approvano, e speriamo che, avendo fatto questo importante passo attraverso il Parlamento, adesso si chiuda ben presto, come ha ricordato lei, passando anche con l'approvazione del Consiglio. Ecco, visto che ho dei messaggi appunto al 349-238-6666, mi faccia capire se il prodotto, non so, se, visto che lei fa abbigliamento, insomma, se il capo d'abbigliamento, se il tessuto che io uso è fatto in Cina, però poi lavorato in Italia, cucito in Italia, io posso scrivere Made in Italy. Oggi la regola internazionale, tranne la legge americana che è un pochettino più restrittiva, però in tutto il resto del mondo, ovviamente esclusa anche l'Europa, perché finora non era dotata di una regolamentazione, basta l'ultima fase sostanziale, quindi quella che si ritiene dia il maggior valore aggiunto al prodotto, basta indicare dove questa avviene per poter mettere il relativo. Per cui se ho un paio di jeans, poniamo, che li ho fatti fare in Indonesia, e poi metto i bottoni e non so, faccio la colorazione. Assolutamente no. Non è sufficiente perché non è una fase sostanziale, il cucire un'etichetta, l'aggiungere un bottone, metterlo una cerniera, dargli un colpo di stiro non è assolutamente sufficiente perché la confezione anche di quel jeans è fatta in Indonesia e quindi dovrebbe per legge portare il made in Indonesia. Ecco, per cui questa cosa che è passata in Europa obbligherà a scrivere made in Indonesia o made in China, in quali casi però? Mi faccia capire, perché vorrei capire perché voi siete così contenti. No, tutti i prodotti che vengono importati, i prodotti finiti, apparentemente poi anche nell'ultima versione di questo regolamento si sono aggiunti anche i semilavorati che entreranno in Europa. A qualsiasi stadio essi siano dovranno avere l'indicazione di ecco, ci chiedono gli ascoltatori, dottor Zegna, ma non è già così? Cioè io compro un giocattolo per mio figlio, c'è scritto Made in China, compro, che ne so, un apparecchio di elettronica, c'è scritto Made in Malaysia, non è già così? No, perché quello è eventualmente una decisione del produttore che decide di metterlo, e questo va benissimo perché è l'indicazione effettivamente noi che vogliamo che ci sia, però c'è chi a un certo punto può invece produrre negli stessi paesi, non volere mettere l'origine, non c'è la legge che fino ad oggi gli poteva tranquillamente arrivare la pezza di tessuto o il giocattolo senza indicare il made in, giusto? E nessuno poteva a un certo punto obiettare perché non c'era il made in, non essendoci un obbligo di metterlo. Quindi adesso c'è l'obbligo del made in, che vuol dire made in France, made in Italy. No, attenzione, non made in France, parliamo di prodotti che arrivano da fuori Europa. Sì, mi scusi, volevo dire. Per cui in questo momento, con questo regolamento, regolamentiamo le merci che entrano arrivano dai paesi fuori Europa. Volevo dire, immagino che se uno produce in Francia abbia tutto l'interesse a scrivere made in France. Comunque, d'accordo, non per la legge. Non per la legge, dico. Per cui, oltre che uno giustamente scrivere made in France o made in Italy perché ci tiene, no? O made in Germany, adesso vi sarà l'obbligo anche per chi fa arrivare i prodotti da fuori in Europa nello scrivere made in Indonesia, made in USA, made in, in China e quant'altro. Per le categorie, per alcune categorie, non parliamo di tutte le merci. No, quelle che ho citato, no? Assolutamente. Ecco, perché, in che cosa è diversa questo obbligo per qualunque merce che entra in Europa di avere un made in qualcosa? Rispetto alla legge, il testo della legge Reguzzoni Versace, quello che prevede che per poter scrivere Made in Italy tu debba avere almeno due passaggi, riguarda il tessile e il calzaturiero, non riguarda tutti gli altri settori, però due passaggi su quattro, cioè filatura, tessitura, finissaggio e confezionamento, due di questi quattro devono essere fatti in Italia. Voi su quella legge lì, che invece andrebbe a disciplinare che cos'è Made in Italy nel tessile, siete sempre rimasti molto freddi. Allora, perché vi piace quella europea e non vi piace la proposta Reguzzoni Versace? Ma perché l'ho detto prima? Innanzitutto leggi di natura commerciale, di tutto quello che riguarda quanto circola in Europa, non sono i singoli stati che oramai hanno più potere di emetterle e di farle rispettare. L'unica che può avere questo tipo di diritto è l'Europa, per cui di per sé stesso, a parte ancora il contenuto, su cui se vuole poi rientriamo dopo, ma la legge italiana era sbagliata in quanto legge italiana e non invece legge europea approvata dalla maggioranza del Parlamento e del Consiglio, che quindi andasse ad agire su tutti i paesi. Era discriminante a un certo punto dell'Italia rispetto ad altri paesi, partiva quindi con un vizio fortissimo di forma. Nel contenuto poi comunque aveva anche delle aberrazioni, in quanto ad esempio prendendo il tessile, adesso senza entrare in dettagli forse per la più parte degli ascoltatori anche abbastanza difficili da capire, però su quattro fasi in cui si era divisa effettivamente la produzione di un prodotto di abbigliamento, bastava che due di queste, senza indicare che una di queste doveva essere la fondamentale, quella che dava maggior valore al prodotto, bastava che due fossero fatte in Italia per poter mettere Made in Italy, pur dovendo indicare anche le altre. Cioè paradossalmente uno poteva fare la filatura e la tessitura in Turchia o in Indonesia o in Cina, poi arrivare qui, fare in Italia il finissaggio e il confezionamento e poteva scrivere Made in Italy. No, il confezionamento al limite, essendo appunto l'ultima fase sostanziale da regola al generale in mondiale, poteva andare bene, ma per assurdo bastava un filato italiano, una tessitura fatta in Papuasia, una finitura rifatta in Italia, un confezionamento di nuovo rifatto in Papuasia, che permetteva di mettere il Made in Italy. Quindi era concettualmente un qualche cosa che anche nella sostanza probabilmente non andava. Creava se mi passa termine, un casino terribile, perché è chiaro, tu potevi fare dei passaggi a tua scelta all'estero e scrivere Made in Italy. Quella è la cosa su cui noi abbiamo sempre trovato da ridire, un po' che ci è sempre lasciato perplessi, cioè che uno potesse scegliere quali passaggi fare all'estero o fare in Italia e poi poter scrivere Made in Italy. Comunque, grazie al vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione Paolo Zegna. Grazie a lei, a presto. Mi sembra tutto abbastanza chiaro, non è passato il Made in Italy, cioè il full Made in Italy, è passato il Made in, l'obbligo, lo ripetiamo per l'ultima volta, di, non era un obbligo fino adesso, di scrivere da dove arriva il bene che entra in Europa. Adesso la borsa, o meglio dopo il traffico, borsa, ripeto per chi si fosse permesso in collegamento, più 0,90, molto bene Bulgari e poi Fiat avrà uno spazio apposito visto che i conti della trimestrale presentati oggi erano nettamente migliori delle attese. 349-238-6666 per i vostri sms. Il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo dare una precisazione: non c'è l'agricoltura nei prodotti, quindi non ci sono i prodotti alimentari nella decisione presa oggi a livello europeo sul Made in. Ripeto, i settori interessati sono tessile, abbigliamento, calzature, ceramica, oreficeria, viti e bulloni, utensileria, coltelleria, vetro, rubinetteria e pneumatici. Adesso la borsa. Più 0,90, ma andiamo subito sui casi, al di là di Fiat che avrà un approfondimento apposito. Bulgari più 5,5%, ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Bulgari. Bulgari è ancora la migliore, gli acquisti in questo periodo di Piazza Affari sembrano concentrarsi soprattutto sulla Maison del Lusso, oggi in buona compagnia perché in Francia Louis Vuitton ha guadagnato il 4,9%, a cosa sono legati tutti questi rialzi? Gli esperti del settore sono convinti che il settore lusso nel 2010, dopo la grande crisi del 2009, potrebbe tornare a tirare seriamente, dunque in attesa delle trimestrali, grandi acquisti su questi titoli. Ancora per quello che riguarda Fiat, ripeto, ne parliamo più avanti, più 4,4 Fiat, più 3,40 Exor, Geox più 3,30 e Autogrill più 2,80. Come mai Bulgari e Autogrill con l'euro a 1,40 guadagnano così tanto? Ma guarda, oggi ci sono state trimestrali molto brillanti da parte di Danone, di Pernod Ricard, comunque beni di consumo che aziende che vendono beni di consumo che tornano a macinare utili, questo lascia intendere una ripresa economica, un aumento della domanda di beni e dunque queste aziende tra alimentare e beni di consumo tornano ad avanzare in modo importante. Su Autogrill peraltro incide anche l'aumento del traffico aereo recente, che quindi come sappiamo Autogrill realizza molto del fatturato anche negli aeroporti e quindi è ulteriore benzina per il titolo. Ancora tra chi ha perso, volete sapere dell'oro? L'oro è fermo, 1342 dollari l'oncia. Popolare di Milano debole, meno 1,5, Fondiaria meno 1,1, Impregilo meno 0,70, Ansaldo mezzo punto, Ansaldo STS mezzo punto percentuale di calo. Pop Milano. Pop Milano, oggi le banche non sono andate molto bene, prese di beneficio dopo due giorni di rally a seguito degli ottimi risultati delle trimestrali bancarie americane. Popolare di Milano è un istituto che per un motivo o per l'altro nelle ultime settimane ha convinto meno degli altri, anche per il fallimento dell'offerta su Monte di Parma, e dunque gli operatori l'hanno punita oggi. E questo per quello che riguarda, diciamo, il bancario che più ha perso, perché il Banco Popolare ha perso lo 0,30, Unicredit lo 0,1, mentre Intesa San Paolo ha guadagnato l'1,1, Monte dei Paschi l'1,40, ancora basta. Invece Telecom bene più 1,80, Snam pure più 1,90, come Pirelli, Finmeccanica più 2, come Mediolanum e Luxottica e anche Unipol. Il 2,2 lo guadagnano Campari, CIR e poi, diciamo, Mediobanca più 2,4 e anche Autogrill più 2,80%. Tra i titoli, Fondiaria ha ancora le decisioni sull'assetto del gruppo? Sì, poi c'è una grossa incertezza, un punto interrogativo più che altro, sulla cessione di Liguria Sasa. Non si capisce bene se questa compagnia si venderà a sconto o meno, insomma gli operatori non riescono a capire anche se si riuscirà poi a distribuire un dividendo nel 2010, quindi il titolo perde. Ecco, tu dicevi giustamente di Autogrill, le trimestrali che hanno inciso in maniera positiva anche su Parmalat e Campari, giusto? Certo, grandi trimestrali ottimi di Danone e Pernod Ricard. Pernod Ricard a Parigi ha guadagnato oltre il 6%, questo la dice lunga. Ancora, per quello che riguarda poi le trimestrali, adesso parleremo di quelle di Fiat, invece Diego Della Valle oggi ha annunciato un paio d'ore fa, lui è il presidente, questo legato del gruppo Tod's, di aver rafforzato la sua partecipazione nella catena americana di grandi magazzini di lusso Saks. L'ha portata dall'11% al 20%, ancora i migliori e peggiori rapidamente. Migliore Vivendi più 9,6, la Lazio più 8,90, Nokia più 6,3, Dada più 6%, e peggiore Industria Innovazione meno 3,50, Pirelli Real Estate meno 3,3%. Tra l'altro il prossimo 25 ottobre vi sarà l'assegnazione delle azioni Pirelli Real Estate, CEO. Sì, in seguito alla scissione avverrà nel gruppo tra, diciamo, ramo immobiliare e ramo della il resto del gruppo, il resto della parte pneumatici e il resto, quindi sono aggiustamenti, diciamo, in vista del concambio della scissione più che altro. Allora, chiaro che il caso del giorno in borsa, ma non solo, nella giornata finanziaria resta Fiat. Allora, ringraziando il collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, ciao Condina. Grazie a voi. Passiamo a Fiat. We've had an outstanding third quarter. We're happy. I think the group has performed well. Obviously, group revenues were up significantly over the prior year, with Latin America being probably the most significant contributor in the top line growth. The NH was in all ways. E quello che state sentendo è la conference call, come si chiama in gergo, di Sergio Marchionne in inglese, ottimo. È canadese, che dice: abbiamo avuto risultati straordinari nel terzo trimestre, siamo molto contenti. I ricavi sono saliti in modo significativo e l'America Latina ha dato probabilmente il maggior contributo. CNH, quindi il Movimento Terra, è stato un po' una sorpresa. Ricavi in aumento del 32%, molto bene Iveco, più 15%, 2 miliardi di euro. E molta incertezza anche però riguarda il progetto Fabbrica Italia. Ha continuato poi Marchionne: dopo la firma dell'accordo di Pomigliano siamo stati in grado di avviare gli investimenti e il piano di formazione per essere pronti nel 2011. Ancora in stand-by il progetto Fabbrica Italia. Andrea Malani in collegamento con noi. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. C'è il GR, poi ci racconti la parte molto positiva, come il mercato ha visto, ricavi, utile quant'altro, e invece queste incertezze sul progetto Fabbrica Italia. 349-238-6666 per i vostri sms e il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Malan, abbiamo visto, insomma, i conti. Il terzo trimestre di Fiat segna utili per 190 milioni di euro contro i 25 di un anno prima, quindi nettamente in crescita. I ricavi più 12% a 13 miliardi e mezzo, e soprattutto quello che ha entusiasmato la borsa. Ricordo che Fiat è il secondo miglior titolo oggi, più 4,5%. Le previsioni riviste tutte al rialzo, tutti gli obiettivi per l'anno in corso. Nei singoli settori

di 20 milioni e associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita per circa 30 milioni sottratti all'istituto attraverso la vendita di derivati definiti esotici. Raffaella Calandra ha seguito la sentenza in collegamento con noi. Raffaella, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, a te nostri ascoltatori. Allora, Banca Italease è stato un vero e proprio germinaio in Italia, ha rischiato, oltre che aver messo in ginocchio centinaia di risparmiatori, ha rischiato di mettere in ginocchio anche la quarta, quinta banca italiana, che si chiama Banco Popolare, per investimenti spregiudicati, non possiamo raccontare ogni volta, e anche poi reati veri e propri da parte del gruppo, appunto, capitanato da Faenza, dall'ex amministratore delegato Massimo Faenza. La sentenza è pesante, ma qui c'entrano i derivati in senso stretto, cioè gli strumenti ad alto rischio? I derivati sono sempre stati, diciamo, sullo sfondo di questa indagine, ma sotto accusa qui è stato il sistema stesso di gestione della banca dell'era Faenza, cioè il reato contestato a tutti tranne ad uno, come tu li hai ricordati, era quelli di associazione a delinquere per appropriazione indebita. Cioè in sostanza tutti avrebbero lucrato sulle commissioni versate dai clienti per la vendita dei contratti sia di leasing e soprattutto di derivati. La cifra contestata è di 30 milioni, ma come aveva ricordato il PM nella sua requisitoria, i danni ingentissimi, aveva detto il PM Roberto Pellicano, sono stati molto maggiori, diciamo, rispetto a questi 30 milioni, perché diciamo, hanno avuto delle ricadute sulla stessa banca, che è passata, diciamo, dal momento d'oro di Piazza Affari fino al ritiro, al delisting, al ritiro del titolo il marzo scorso, e questo in un certo qual senso l'accusa ricostruisce il fatto che loro si sarebbero impossessati di quei proventi delle commissioni, mentre sulla banca cadevano tutti i rischi di quei contratti, la cui contabilizzazione poi ha affossato lo stesso istituto. Tanto è vero che la sentenza e la condanna del tribunale è più pesante di 2 anni di quella che la stessa procura aveva chiesto. Che questo è un caso abbastanza strano, cioè hanno dato più anni a Faenza di quanti richiesti dal PM. Tu hai parlato di insomma lucrare, per me è proprio un furto, 30 milioni di euro non è proprio un dettaglio, e giustamente nella sentenza viene fatto capire come non c'è solo il guadagno diretto per Faenza e soci, c'è anche il fatto che in questo modo hai fatto imbarcare alla banca rischi impropri e quindi hai aumentato poi tutte le passività possibili e poi realizzate. Sì, vorrei dare la linea al traffico e poi concludere invece con l'avvocato che tu hai intervistato, che è legale della parte civile di Banca Italease, perché insomma c'è poi una parte civile anche in questo processo. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi passiamo in Francia. Allora, Raffaella Calandra, vogliono sapere gli ascoltatori se andrà veramente in galera Faenza di questi 7 anni, e poi che cosa ha detto la parte civile, cioè Banca Italease, che si è costituita parte civile. Prego. Faenza è stato già in carcere quando fu arrestato nel 2008 come misura cautelare, adesso ovviamente ci sarà l'appello e poi la Cassazione, quindi voglio dire l'iter è ancora da venire. La parte civile commenta dicendo che è una sentenza giusta, perché è stata riconosciuta la gravità del danno alla banca, e ovviamente il riferimento è soprattutto a quanto la nuova Italease sta cercando di recuperare in termini di milioni di euro. Sentiamolo. La banca non è fallita soltanto in ragione di un eccezionale intervento da parte di particolare dell'attuale azionista di riferimento, ma di per sé il danno causato è un danno che va molto quindi al di là di quello che è la somma oggetto di imputazione a titolo di appropriazione indebita. Avvocato, lei aveva chiesto una provvisionale di 30 milioni, la Corte ha condannato gli imputati a 20, ecco, al di là della disparità di questa cifra, sul fronte, diciamo, recupero da parte della nuova Italease, com'è la situazione? Ci sono stati alcuni accordi transattivi, qualcuno anche di sicuro significato, vi sono anche diversi sequestri. Quello che in un certo senso è sembrato un po' mancare è che non è stato mai trovato, ad esempio, un tesoro di Faenza. Sicuramente una delle deficienze straordinarie e delle domande che questo processo pone, anche molto inquietante, è il come mai di una una condotta processualmente suicida, negare anche l'innegabile necessariamente avrebbe portato a una sanzione severa. La domanda che resta senza una risposta è proprio che cosa e chi Faenza deve ancora poter difendere. Così appunto l'avvocato legale della parte civile Banca Italise Giovanni Accinni. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. E adesso, come promesso, dopo aver fatto Banca Italise, Fiat, la decisione europea su Made In, commentato una borsa in più 0,90%, molto bene Geox, Autogrill, oltre che Fiat anche Bulgari più 5,5, l'euro a quota 1,40. Ci manca un ultimo tema per raccontare questa giornata economico-finanziaria e mi riferisco agli scioperi che stanno paralizzando, così almeno leggiamo, la Francia. J'ai vu les images de Lyon hier. Ho visto le immagini di Lione ieri ed è scandaloso. Non saranno i manifestanti, i casseurs ad avere l'ultima parola. Saranno arrestati, trovati e puniti. A Lione come altrove, senza nessuna remora. Perché nella nostra democrazia ci sono tanti modi per esprimersi. Ma la violenza più vile, la più gratuita, non è accettabile. Eh sì, è il presidente francese Sarkozy, durissimo sulle proteste iniziate il 12 ottobre contro la riforma delle pensioni in Francia, perché il governo intende elevare, portare l'età pensionabile da 60 a 62 anni. Bloccate solo oggi per 5 ore l'aeroporto di Marsiglia, gli scali di Nantes, Clermont, Tolosa, da centinaia di lavoratori delle raffinerie. Decimo giorno di sciopero per le raffinerie, bloccato il principale porto petrolifero, Marsiglia. Alle Havre ferme 10 petroliere, bloccate 12 raffinerie e 14 depositi di carburante, 5.000 pompe di benzina, una su due. Nonostante l'invito di Sarkozy a sbloccare i depositi di carburante, ancora scioperi a Marsiglia e Tolosa degli addetti alla raccolta dei rifiuti, 312 licei in agitazione e 1.900 le persone fino ad ora arrestate. Poi Lady Gaga che ha annullato due concerti a Parigi, questa possiamo anche, diciamo così, accettarla. Marco Musanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, se ho ben capito, tu dici, attenzione, non è vero che la Francia è in paralisi. Ho esagerato? No, esagerato. No, non è esagerato, è esattamente così. La Francia non è paralizzata. Abbiamo quindi raccontato un mucchio di balle? No, è che c'è una, cioè, nel senso che sicuramente c'è una protesta in corso che ha delle conseguenze, ha avuto in alcune giornate delle conseguenze particolarmente pesanti e le ha oggi soprattutto proprio sul fronte del rifornimento di carburante. C'è una tendenza, secondo me, un po' alla faciloneria nell'esagerare le cose anziché raccontarle come stanno davvero, anche perché, come dire, sì, è più facile fare i titoli gridando al disastro che non fare i titoli raccontando come stanno davvero le cose, perché magari questo è meno, fa meno notizia. Allora, dicelo tu come stanno le cose, nel senso, tu che in Parigi ci vivi. Ok, difficoltà a fare... Allora, il quadro appunto è più o meno questo. I treni stanno viaggiando pressoché regolarmente in tutto il paese. I trasporti pubblici locali funzionano. Funzionano a Parigi, dove la gente circola normalmente, ma funzionano in tutte le altre città francesi. Gli aerei viaggiano, gli aeroporti sono aperti. C'è un unico vero grosso problema a livello nazionale, che è quello del carburante. Le 12 raffinerie francesi sono effettivamente bloccate da 10 giorni, i depositi di carburante in realtà molti ora sono stati liberati dalla polizia, però effettivamente se le raffinerie non raffinano, certo diventa complicato. Cioè tu ci stai... ci sta dicendo, Marco, che c'è sicuramente un problema nelle raffinerie, nei distributori, uno su due bloccati, però al di là di questo, quello che da noi sarebbe, diciamo, uno sciopero del settore della distribuzione di carburante, delle raffinerie, tutto il resto funziona abbastanza bene, ho capito bene? Tutto il resto funziona, no, non solo abbastanza, tutto il resto funziona... Normalmente? Sì, no, quasi normalmente, certo. Poi ci sono degli episodi, vuol dire, questa mattina a Marsiglia per 5 ore l'accesso all'aeroporto è stato bloccato. Vabbè, anche a Cagliari per i pastori. Per un'ora a Clermont-Ferrand, a Nantes, sono stati bloccati gli aeroporti. Però stiamo parlando veramente di episodi rispetto, certo, alla quantità di movimenti che si svolgono nel paese. Senti, dimmi una cosa, Marco, nel concludere, se l'aspettava Sarkozy, sì o no, questa reazione così forte, o perlomeno... Ma il problema appunto è questo, che rispetto ad altre situazioni di forte scontro sociale... Sì. Che peraltro caratterizzano questo paese, no? Nel 95 proprio sulle pensioni, sì. Nel 2006 contro Chirac, dove tu avevi l'impressione che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, il movimento di protesta crescesse. Qui no. Adesso no. Chiaro. Hai un tasso di adesione agli scioperi, cioè di gente che davvero non va a lavorare il mattino perché aderisce allo sciopero, in continua diminuzione. E quindi hai la gente in piazza, è vero, hai 1 milione di persone in piazza. Devo chiudere, Marco, però è chiarissimo il tuo ragionamento e vedevo anche la faccia un po' sorpresa di Giuseppe Cruciani. Ogni tanto forse noi stessi media esageriamo quello che riguarda qualche secondo, insomma, quello che riguarda lo sciopero. Interessante questa cosa che da poche parti ho letto. Giuseppe, di cosa ti occuperai? Sì, cosa diversa quello che accade invece a Terzigno, dove in realtà è tutto bloccato, come sapete, non è la Francia, naturalmente. Ci occuperemo anche di questo, oltre che delle notizie quotidiane della politica. Allora, fra poco con la Zanzara, da Sebastiano Barisoni, veramente è tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.